prendere la parola. Il nuovo programma culturale del Centro di Documentazione di Pistoia. Buonasera, sono Giulio Civilini del Centro di Documentazione di Pistoia. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici e vi do il benvenuto al primo appuntamento di Prendere la Parola. Prendere la Parola è un progetto realizzato dal Centro di Documentazione di Pistoia con la collaborazione di CDI, Eleutera, Edizioni dell'Asino, Fango Radio naturalmente, e con il contributo della Fondazione Caripit nell'ambito del programma Per la Cultura Io Resto Attivo. Prendere la Parola è un ciclo di attività e di incontri, laboratori, presentazioni di libri, giornate di studio, film. Ci occuperemo di pedagogia, educazione, pratiche alternative della pedagogia e dell'educazione, pedagogia libertaria, educazione popolare e quindi naturalmente di scuola. Gli eventi saranno in diretta radio e in podcast. Ci potrete seguire su www.centrodocpistoia.it. Naturalmente, non appena sarà possibile, gli incontri saranno in presenza, quindi potrete rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti attraverso il sito e i social del CDP. Dunque, a questo primo appuntamento presentiamo le conversazioni con Ivan Ilić in una nuova edizione di Eleutera con il titolo Una fiamma nel buio, un'edizione del 2020 curata da Giacomo Borella. Ricordiamo anche agli ascoltatori che possono partecipare lasciando delle domande attraverso il form che trovate sulla pagina dell'evento e che verranno poste agli ospiti nella parte finale dell'incontro. Ascoltiamo la scheda biografica di Ivan Ilić preparata da Gabriella Traviglia. Ivan Ilić nasce a Vienna nel 1926 da padre croato e madre di origine ebrea ma battezzata protestante. Cresce in un ambiente di stampo cattolico nella casa paterna in Dalmazia. Nel 1932 è costretto con la famiglia ad abbandonare quel luogo, l'ultima casa che ha sentito veramente sua. Da allora vivrà sempre come un accampato, senza fissa dimora, pellegrino in cerca di accoglienza in luoghi senza stato, in comunità senza futuro. Tutti ambienti di cui si occuperà nei suoi scritti. Con l'avvento del nazismo fugge con la famiglia a Firenze. In Italia frequenta anche l'università e inizia la sua formazione sacerdotale, prendendo i voti nel 1951. Assegnato alla diocesi di New York e nominato viceparroco in una comunità portoricana del Lower East Side, si rivela, fin dall'inizio della sua carriera ecclesiastica, un vivacissimo organizzatore, ricercato e stimato da alcuni e osteggiato e diffidato da altri. Nel 1956, a 29 anni, l'arcivescovo di New York lo nomina Monsignore e vicerettore dell'Università Cattolica di Porto Rico. In quel contesto riconoscerà subito la dignità dei socialmente marginati. Già nel 1960 inizia a scontrarsi con la gerarchia cattolica, opponendosi soprattutto a quello che definisce un nuovo tipo, molto più perverso, di colonialismo che vuole distruggere dall'interno i sistemi culturali dei paesi del terzo mondo e omogenizzarli all'idea rooseveltiana e tutta nordamericana di sviluppo e progresso. Nei primi anni 60 fonda il Centro Interculturale di Documentazione, CIDOC, a Cuernavaca, in Messico, che diventa la base operativa per lo studio della modernità e dei problemi chiave della società, evidenti nelle istituzioni e negli enti di formazione ufficiale. Dopo anni, l'attività di analisi critica del CIDOC porta l'organizzazione stessa in conflitto con il Vaticano. A causa delle sue critiche all'organizzazione istituzionale della Chiesa, nel 68 Ilić si ritrova davanti al Santo Uffizio per un processo da cui esce prosciolto, ma in seguito al quale il suo centro viene privato di ogni finanziamento. Per di più, il Santo Uffizio vieterà ai preti di seguire i corsi del CIDOC. In una lettera aperta pubblicata dal New York Times nel 69, Ilić rinuncerà unilateralmente a tutti i suoi titoli, benefici e servizi ecclesiastici, smettendo di dire messa. Nonostante l'azione, l'isolamento nei suoi confronti, intellettuali come Paulo Freire, Susan Sontag, Eric Fromm e moltissimi altri frequentano e animano le discussioni all'interno di questo centro straordinario, dove si afferma che l'apprendimento è possibile solo se imparare una scelta che avviene in completa libertà. In uno tra i suoi testi più celebri, Descolarizzare la società, muovendo da una critica radicale della società consumistica a cui la stessa scuola contribuisce educando alla passività spirituale, Ilch auspica la deistituzionalizzazione dell'educazione. Si dichiara infatti contrario alla tecnocrazia degli insegnanti di professione e propone un'alternativa conviviale che comporti l'abolizione del titolo di studio e la scelta libera da parte dell'individuo, dei propri compagni, maestri, tempi e mezzi didattici. La parabola del CIDOC volgerà comunque al termine nel 76, ma per scelta libera dei suoi membri, per evitare che, per inerzia, diventasse a sua volta un'istituzione. È quasi impossibile inquadrare l'opera di Illich all'interno di un preciso ambito disciplinare. Ogni volta sembra che, partito da un terreno familiare, Illich svolti all'improvviso per imboccare una strada diversa. Sfugge a ogni tentativo di definizione, sociologo, filosofo, antropologo, teologo, storico. Lui stesso dirà: a me interessano le cose che tutto il mondo sa, ma che nessuno osserva. Provo una vera insofferenza per le idee scontate, ma anche un orrore per la specializzazione, che considera un processo alienante. Immergendosi nella lettura dei suoi libri, pamphlet, articoli, si resta spaesati, ma in modo salutare. Illich ci chiede continuamente di ridefinire concetti dati per scontati, mettendo in discussione ogni tabù. È necessario sgomberare il campo, dar vita a una confusione, potremmo dire, creativa, che porti ad un modo differente di vedere il problema. Utilizza diverse strategie. La prima, la trasmigrazione delle idee. Illich offre esempi illuminanti del potere delle idee quando travalicano i limiti disciplinari. La seconda è il plurilinguismo. Illich era un poliglotta, parlava 9 lingue vive e 4 morte e considerava l'uomo plurilinguis naturale, mentre ciò che noi consideriamo normale, l'uomo che parla una lingua sola, in realtà è un prodotto degli stati-nazione. La terza, se consideriamo come Illich guardava il proprio lavoro, soprattutto in tale età, sta nel modo in cui attribuisce a se stesso il ruolo di storico, ma uno storico tutto particolare, perché in realtà si occupa sempre del presente. Fin dai suoi lavori degli anni 70, Descolarizzare la società, La convivialità, Nemesi medica, questo strano intellettuale, prete cattolico poi spretato, riesce a turbare nel profondo la cultura dominante, ma anche e soprattutto quella progressista. Illich è convinto che le istituzioni, chiesa, scuola, ospedali, porti, funzionino come strumenti che dopo un certo tempo diventano improduttivi e dannosi per la libertà dell'uomo, tradendo gli stessi scopi per cui erano stati creati. Dopo 15 anni di interviste rifiutate, nel 92 esce la fondamentale conversazione con David Cayley, pubblicata in italiano da Eleutera, prima nel 94 e poi riedito nel 2020. Durante questa conversazione straordinaria, poi intitolata Una fiamma nel buio, il ci dirà: non devi mai arrenderti. Fino a quando una persona è viva, da qualche parte, sotto la cenere, rimane un pochino di fuoco. E tutto il nostro compito è soffiare. Soffiare con cura, con molta cura, e vedere se si accende. Non devi preoccuparti se il fuoco riprende o no. Tutto quello che devi fare è soffiare. Negli ultimi anni della sua vita, ad Illich viene diagnosticato un tumore alla gola e per sopravvivere i medici gli intimano di operarsi immediatamente. Ma egli non si sottopose all'intervento chirurgico e visse altri 16 anni. Fino alla sua morte, nel 2002, festeggiò ogni anno di vita con una bottiglia di vino pregiato. Bene. Eccoci di nuovo in studio, siamo quindi qui per parlare di un libro, per parlare del suo protagonista che narra se stesso, narra il suo pensiero, narra l'evoluzione del suo pensiero e quindi è il momento di presentarvi i nostri ospiti. Vi presento quindi Luigi Monti, ciao Luigi. Ciao, ciao a tutti. Luigi insegna italiano nella scuola di italiano per stranieri Free Zone di Nonantola a Modena. Luigi, sei redattore della rivista Gli Asini e per le edizioni dell'Asino hai curato di recente un'importante antologia di scritti pedagogici di Fernande Ligné col titolo I vagamondi efficaci, un testo che presenteremo tra l'altro in uno dei prossimi appuntamenti, sempre su Prendere la Parola. Il secondo nostro ospite invece è il curatore di questa nuova edizione ed è Giacomo Borella. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno a tutti. Giacomo è architetto, lavora all'interno dello studio Albori che ha fondato con degli amici già 30 anni fa ed è scrittore autore del libro Per un'architettura terrestre, edito da Lettera 22 nel 2016. Ha tradotto anche dall'inglese e curato la raccolta di scritti di Colin Ward, Architettura del dissenso, edito anche questo da Eleutera nel 2016. E oltre a queste nuove edizioni delle conversazioni con Ivan Illich, ha curato anche una nuova edizione di Il mutuo appoggio di Piotr Kropotkin, sempre per Eleutera 2020. Dunque, parte quindi anche la nostra di conversazioni e voglio prendere spunto, se siete d'accordo, se vi va, proprio da questa scheda biografica che ha toccato, abbiamo sentito anche il pensiero, l'evoluzione del pensiero di Ivan Illich in qualche modo. Giacomo, volevo porti questa domanda iniziale. Possiamo spendere due parole sul CIDOC, sul Centro Interculturale di Documentazione di Cuernavaca? Possiamo cercare di recuperare una riflessione sull'esperienza sudamericana di Ivan Illich e trovare una chiave di lettura di quella che poteva essere la declinazione dell'impegno politico e civile di Ivan Illich, data anche, come abbiamo sentito dalla biografia, l'irriverenza con cui criticava anche tanti ambienti progressisti e fortemente impegnati sulle problematiche sociali e sulle problematiche del sud del mondo? Ci possiamo provare. La scheda biografica era fatta davvero molto bene e aveva due piccole inesattezze per quel che so io. Uno, che il CIDOC non nasce nel 61 ma nel 66 e poi dura fino al 76. Prima nasce un suo antenato che si chiamava il CIF. Ah, il CIF. CIF. CIF. È vero, sì. Quello detersivo, diciamo. E l'altra è che il tumore non era alla gola, ma era a una guancia, una strana forma tumorale a una guancia. Ma quello, vabbè, non è importante. E non è facile riassumere che cosa fosse questo CIF e poi ben più noto CIDOC. Mm-hmm. Diciamo che, prima di tutto, paradossalmente, se Illich era famoso per la sua posizione di descolarizzatore, dobbiamo ammettere che era una scuola. E questo è molto emblematico dell'atteggiamento di Illich, che, come dire, incarnerà per tutta la vita, di volta in volta, anche paradossi diversi. Quindi era nasceva come una, tecnicamente come una scuola di spagnolo, in cui i futuri, in qualche modo volontari, che si preparavano ad andare a operare in America Latina, tendenzialmente di provenienza nordamericana, passavano una stagione a studiare la lingua. In realtà, come spiega Illich anche nelle conversazioni che stiamo presentando, era quasi un espediente questo di intercettare queste figure che in qualche modo Illich e i suoi sodali ritenevano mosse da una buona intenzione e destinate a produrre effetti in qualche modo, come avrebbe detto lui, controproduttivi una volta avessero iniziato la loro attività, era un modo per intercettarli e per proporgli una rimessa in discussione radicale delle loro basi di partenza e dei loro obiettivi. Quindi da un lato c'era questo fatto che era più di un'esperienza, cioè l'idea che che il fatto che queste persone dovessero poi vivere per anni in America Latina, imparassero bene la lingua locale, fosse una condizione sine qua non per, come dire, non arrivare come dei marziani nella loro destinazione. Però poi contemporaneamente, appunto, il cuore poi dell'attività che si svolgeva al CIDOC, e di cui i soldi che venivano raccolti come forma di retta di iscrizione alla scuola di lingue erano poi il appunto il finanziamento per questa fine più profondo, era appunto una come si anticipava già nella scheda biografica, una messa in discussione radicale, come in una rassegna vasta di tutti i principi fondamentali e i luoghi comuni che stavano a monte della idea di sviluppo, di progresso e del suo contrario, cioè di sottosviluppo. Questo è uno degli obiettivi su cui Illich lavora più costantemente in quel quindicennio del CIF, CIDOC. Una messa in discussione del fatto che la strada imboccata dai paesi che lui qua e là chiama sovrasviluppati o sovrattrezzati, la messa in discussione del fatto che quella strada fosse l'unica possibile da percorrere. Illich in quel periodo, fino a metà degli anni 70, credeva che, lo scriverà in modo molto chiaro, che i paesi cosiddetti sottosviluppati fossero in una posizione di vantaggio ancora, potessero essere in una posizione di vantaggio in quanto ancora in grado di decidere la loro sorte, la loro, come dire, prospettiva di vita, senza appunto avere già iniziato quel processo fortemente distruttivo per molti versi, che era quello, diciamo, dello sviluppo, ovvero della società dei consumi. Questo direi in poche parole. Certo, grazie Giacomo. Io avrei già molto, prenderei già spunto da alcune cose che hai toccato, e credo che quello che hai detto, questa nota sul CIDOC, ci serva perché ci dà l'appoggio per accedere a quella visione del mondo che stava dietro a questo modo di agire e di riflettere, e di agire quindi in senso, il senso dell'attività politica, dell'attività civile. Quindi prendo il primo punto forse che hai tirato fuori, e che è la questione dell'educazione, della scuola. Lo faccio volentieri anche intanto perché ricordo che è il tema del nostro ciclo di incontri, quello di prendere la parola, un ciclo di incontri che parte ora ma che dura per tutto l'anno e che pone al centro questa questione, anzi appunto la pone come questione, l'educazione. E io penso che Ivan Illich sia un punto di partenza perfetto, perché ci obbliga in un certo modo a partire dal grado zero, cioè da interrogarci su quale sia il significato profondo dell'uso di questa parola, il significato della parola e il senso appunto dell'uso di questa parola. L'educazione è un qualcosa che si dà per scontato, lo si fa come, in un certo senso, come sia come luogo comune, per cui sia persone educate o meno, sia persone istruite o meno, sia come una categoria intellettuale di pensiero, di riflessione scientifica. Forse c'è bisogno di cominciare a interrogarci più profondamente, di tornare alla radice, e con Ivan Illich, seguendo queste conversazioni, lo facciamo. Quindi rivolgerei a te Luigi la prossima domanda. Allora, un problema che si pone Ivan Illich è: che cosa fanno le cose alla società, e quindi che cosa fa l'educazione alla società? La sua critica parte da qui. Ti voglio dare due spunti e poi ti lascio su questo argomento. Secondo l'assunto comune di educazione, esiste una scarsità, e già forse, se poi vuoi specificare, dilungarti anche sull'uso di questo termine da parte di Ivan Illich, puoi farlo. Esiste una scarsità, esiste, si presume un deficit di competenza, si presume uno stato di minorità a livello di capacità di apprendimento, e si presume anche che ci sia una qualche entità che detiene o monopolizza le possibilità di svolgere un'attività educativa. Per cui si è ormai, diciamo, del tutto assuefatti nel concepire il sapere come un valore, piuttosto che come un bene, no? Come un qualcosa di necessario, piuttosto che come un qualcosa di desiderato, sempre un po' per usare le parole di Ivan Illich. E quindi incombe in questa prospettiva sempre un'idea economica del sapere, e quindi ti rilancio anche, se vuoi, se volete, poi se vuole intervenire anche Giacomo, una riflessione sulla scuola. La scuola cosa fa? Capitalizza il sapere per educare, ecco, questi sono gli spunti. Luigi. Sì, dunque, allora, potrei partire forse anche dalla domanda che hai fatto a Giacomo sul cibo. Senz'altro. Ovvero, perché si collega a questo che mi hai chiesto, ovvero al fatto che se uno pensa ai libri, agli scritti, agli interventi pubblici di Illich, come dire, non trova delle indicazioni su come si possa fare scuola in un altro modo, su come si possa fare educazione in un altro modo. Questo probabilmente legato al fatto che lui si è dedicato, come dire, molto intensamente più al tema che al dogma, cioè, per rimanere un po' nel linguaggio cattolico che lui frequentava molto assiduamente. Cosa vuol dire che si è dedicato più all'anatema? E sentiva l'urgenza di demistificare un po' le certezze, le fragili certezze su cui sono costruiti tuttora le istituzioni che reggono l'impalcatura delle democrazie occidentali. Non gli interessava tanto la parte costruttiva, per il fatto che, cioè, il messaggio forte che ha sempre cercato di dare è che sono le persone, sono le comunità, sono i gruppi che in un contesto dato devono porsi la questione di come fare scuola, di come fare educazione. Quindi lui non voleva insegnare nulla in questo senso, ma sgomberare il campo e liberare energie creative, psicologiche, per inventarsi modi di apprendere prima di tutto, e per chi avesse questa vocazione di fare educazione. E però sarebbe interessante vedere invece aspetti della sua biografia, perché lui, appunto, come diceva Giacomo, in realtà educazione l'ha fatta per tutta la vita, e sarebbe molto interessante, forse voi al Centro di Documentazione di Pistoia potreste anche un po' farlo questo tentativo, perché so che avete parecchi dei bollettini che uscirono al CIDOC negli anni 60. Sarebbe interessante, perché appunto da partire dalle scuole di lingua che mise in piedi quando era parroco nel quartiere portoricano di New York, alla didattica, se vogliamo chiamarla così, che costruì al CIDOC, fino ad arrivare poi ai seminari e ai convivi che metteva in piedi, magari appoggiandosi a delle strutture universitarie, però in totale libertà. Ecco, se uno andasse a spuriosare per illustrare, troverebbe comunque delle indicazioni interessanti su come Illich faceva scuola. Venendo alla domanda molto complicata che mi hai fatto, diciamo, la questione sarebbe molto lunga. Io non sono uno studioso e quindi non sono in grado di sistematizzare un po' il pensiero di Illich su quello che mi hai chiesto. Mi verrebbe da dire così, cioè, che lui, forse proprio a partire dagli anni del, anche prima del CIDOC, degli anni di Porto Rico, gli anni in cui era vicerettore dell'Università Cattolica, ma anche membro del Consiglio Superiore dell'Istruzione, sostanzialmente gli chiesero in quel frangente lì di pianificare e di programmare il sistema educativo portoricano proprio nell'ottica di una scolarizzazione universale obbligatoria, che in quegli anni a Porto Rico era molto più arretrata rispetto al Nord America. E lui si è reso conto presto, perché ha iniziato a studiare un po' lì la questione educativa, che quello che la scuola dichiarava di voler fare, cioè da una parte istruire, dall'altra, come dire, creare mobilità sociale, dare pari opportunità a tutti, questa cosa in realtà non era in grado di farla, e comunque non era un obiettivo, secondo lui, auspicabile. E tant'è che poi dopo 3 anni se ne va da Porto Rico e si mette a studiare prima di tutto i sistemi educativi occidentali. E quello che si rende conto fare la scuola è molto diverso da quella come dire, partecipazione attiva e creativa alla costruzione del sapere che si erano immaginati i pedagogisti fino ad allora, da Rousseau a Pescalozzi. Quindi da lì incomincia quella sua critica radicale alla scuola, che poi farà un po' da modello alla critica degli altre istituzioni, dalla sanità pubblica al welfare, al trasporto, eccetera, per arrivare poi a una seconda fase in cui va anche oltre alla critica, diciamo, del sistema educativo scolastico, quando si rende conto negli anni Ottanta che il modello della scuola è uscito dalle aule scolastiche, e lui parla di aula universale, cioè quell'idea lì che l'uomo nasca inadatto alla vita e che abbia bisogno di professionisti che masticano il sapere, lo trasmettano per una certa quantità di anni attraverso un meccanismo di premi e punizioni, quindi bocciature e promozioni. Ecco, lui si rende conto che quella cosa gli è andata molto oltre, e quindi inizierà un po' a porsi la questione di come è nata questa idea, cioè di come e quando è nata l'idea che l'uomo in qualche modo nasca inadatto alla vita e che abbia bisogno di esperti che lo rendano umano, insomma. Certo, è questo. Mi posso allacciare a quello che dice Luigi un attimo? Senz'altro, Giacomo, certo. Da quello che diceva Luigi proprio, si può passare a uno dei tantissimi progetti non realizzati da Illich che lui di cui ha spesso parlato, che era quello di, appunto, a un certo punto lui aveva questa idea, anche questa paradossale, di scrivere una specie di storia della scarsità. Scusa, l'abbiamo detto insieme perché ti volevo proprio porre questa domanda, quindi vai avanti. No, è semplicemente questo, diciamo, no? Perché è arrivato al punto in cui diceva Luigi, evidentemente aveva colto in questa idea di postulare la scarsità come all'origine, come fattore originario dell'esistenza umana, che andava quindi colmata attraverso la produzione di una serie di manufatti anche tecnologici o infrastrutture anche istituzionali, diciamo, è diventata sempre più centrale. Poi naturalmente questa storia della scarsità Illich non l'ha mai scritta, ma è disseminata un po' in tutta la sua opera. Già che stiamo parlando di opere, di bibliografia, vorrei dire due cose. Una è specifica sul libro di cui stiamo parlando, Una fiamma nel buio, e per dire molto brevemente che è un po' un libro unico nella produzione illicciana. Tanto per cominciare, non fa parte a tutti gli effetti della sua bibliografia, non è un testo scritto di suo pugno, sono delle conversazioni registrate per la radio canadese da Cayley fra l'88 e il 92, che lui poi, anche qua con un suo tipico stile, non volle mai neanche ascoltare o correggerne la sbobinatura. Però sia perché, appunto, da un certo punto in poi, molto presto, aveva deciso praticamente di non rilasciare interviste, e sia perché per le caratteristiche specifiche di questa conversazione è un po' un libro unico, ed è forse il libro ideale se c'è qualcuno in ascolto che non ha mai letto nulla di Ivan Illich. Diciamo che possiamo raccomandare sicuramente questo libro come il primo gradino ideale per farlo, perché è l'unico libro in cui Illich accetta, anche un po' malvolentieri, un po' forzato da Cayley, molto coraggioso, di percorrere, guidare il lettore, l'ascoltatore, lungo la sua vita e il suo pensiero e le fasi del suo pensiero. Quindi è l'unico libro. Poi c'è un'altra conversazione lunga che farà con Cayley anni dopo, quasi 10 anni dopo, che è pubblicata in italiano con il titolo I fiumi a nord del futuro, in cui però, diciamo, parlerà molto più liberamente del suo dei suoi pensieri contemporanei, cioè della sua, delle sue riflessioni dell'ultima fase della sua vita. E quindi questo libro, Una fiamma nel buio, rimane un po' questo caso isolato in cui Illich stesso racconta a chi lo legge come sono avvenute le fasi, come sono maturate le fasi della sua riflessione e come sono andate le cose. E, l'altra cosa che volevo dire è che lo dicevamo prima fuori onda, può interessare gli ascoltatori adesso il fatto che c'è un precedente in questo rapporto fra il Centro di Documentazione di Pistoia e Illich, ed è questo libro che si chiama Distruggere la scuola, un libro di Ivan Illich, pubblicato dal Centro di Documentazione di Pistoia in un anno che bisogna ricostruire con un po' di studi archeologici, perché nel libro tipograficamente non c'è neppure scritta la data, ma nelle bibliografie più attente viene datato 1971, e che raccoglie 6 saggi di Illich che erano usciti in quegli anni, alcuni già in italiano, su Confronti e su IDOC, che era una rivista della Chiesa conciliare, cioè che di riflessione sulla religione nell'ambito del concilio, e alcuni su Esprit e su Temps Moderne in Francia. Questo libro è anche importante perché è praticamente uno dei primissimi testi di Illich pubblicati in italiano. C'erano stati prima 2 libri, uno di Acabuc e uno della Locusta, che avevano anticipato alcune riflessioni dell'Illich più giovane, ma diciamo è immediatamente precedente a poi la stagione in cui Illich verrà pubblicato, per dire, da Mondadori, eccetera, a partire da Descolarizzare la società, che è l'anno immediatamente successivo, 72 l'uscita di Descolarizzare la società, 73 la traduzione italiana, e poi lungo gli anni 70 gli altri pamphlet centrali del suo lavoro di quel periodo. Ecco, era solo questo inciso libresco. Ottimo, Giacomo, ottimo la nota intanto su quanto davvero sia un'introduzione alla lettura di Ivan Illich perfetto a questo libro, la tua allusione alla trama del suo pensiero, alla trama dei suoi testi, dei suoi scritti, che si configura in maniera sottile ma chiara attraverso questo libro. Quindi per chi sente una risonanza con questi temi che stiamo affrontando, li ritrova chiaramente. E grazie per la nota su questo testo che hai menzionato in ultimo, Distruggere la scuola. E ti rilancio la palla allacciandomi a mia volta su una cosa che ha detto Luigi prima di te. Riflettendo sulla scuola e sull'educazione, Luigi diceva, ha usato le parole "siamo andati molto oltre", riferendosi a quello che era il pensiero di Ivan Illich, cioè appunto su l'effettiva efficienza tra virgolette della scuola istituzionale. Ecco, questo andare troppo oltre sicuramente io ritengo sia una chiave di lettura per il pensiero di Ivan Illich, e quindi un concetto che mi viene da chiederti, Giacomo, di rifletterci sopra insieme a noi, se ne voglia, è il concetto di controproduttività, che si applica alla scuola come si applica a tutto quell'aspetto della tecnologia umana, tutti quegli strumenti, come li chiama Ivan Illich, che avendo raggiunto una certa intensità, essendo andati quindi, come diceva Luigi, molto oltre, si trasformano da mezzi infini, e quindi finiscono col generare, col riprodurre quella scarsità a cui si faceva riferimento prima. Come si diceva, ossessionato dall'idea di cosa l'educazione faceva alla società, Illich lo era in generale di cosa fanno gli strumenti alla società. Giacomo, ti va di dire qualcosa su questo? Certo, molto volentieri, perché diciamo... Penso che il concetto di controproduttività sia una delle cose, fra le molte, ma anche insomma, fra le più importanti che Illich ha lasciato, e fra le più anche necessarie per capire qualcosa dell'oggi. Appunto, l'idea era, come hai già accennato, emersa appunto fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, l'identificazione come fattore strutturale del nostro tempo, della modernità, questo aspetto del passare la soglia dimensionale oltre la quale un'azione comincia a produrre gli effetti opposti a quelli che ci si era prefissati. E questa è una formula che Illich ha poi sviluppato caso per caso in modo molto dettagliato, appunto a proposito delle diverse istituzioni cruciali per la modernità, e quindi, come abbiamo detto, la scuola, la medicina, i trasporti, il welfare in generale e anche l'abitare. Ma è appunto, diciamo, un'idea che poi lo accompagnerà per tutto il resto della sua vita, che si declinerà anche di volta, anche lessicalmente in modi diversi, assumerà utilizzerà il termine di nemesi per il suo famoso libro Nemesi Medica. E poi verso il decennio finale si incarnerà in questo detto latino corruptio optimi pessima, che lui traduce un po' liberamente come non c'è niente di peggio della corruzione del meglio. Diciamo, sono tutti concetti imparentati che hanno a che fare con un'origine, chiamiamola virtuosa, che muove un'azione che poi tende ad organizzarsi dispiegando una quantità, un'intensità di mezzi, di capitali, di tecnologie, di istituzionalizzazioni, appunto oltre quella famosa soglia dimensionale che appunto segna il fatto che da quel punto in poi questa azione comincia a diventare appunto a produrre esattamente il contrario di quello che si prefiggeva. Io credo che oggi noi possiamo, non c'è bisogno di tante spiegazioni di questa analisi, perché la vediamo, come dire, incarnarsi continuamente, quotidianamente davanti ai nostri occhi e dentro alle nostre vite. Per Illich questa era in qualche modo la parabola dello sviluppo e del progresso, che ancora oggi è qualcosa che chi mette in discussione viene automaticamente messo in minoranza, viene visto come qualcosa di assolutamente eretico oggi ritenere di poter fare delle critiche, per esempio, appunto in termini di limitazione dello sviluppo, del progresso. Pensiamo al tema nel nostro tempo delle infrastrutture, no? Le infrastrutture sono una cosa che, come dire, è invocata, l'insufficienza, la scarsità di infrastrutture è un fattore strutturale del nostro tempo. Io penso non aver mai sentito qualcuno, un tecnico, un amministratore, un politico, uno studioso nel mezzo secolo più o meno della mia vita, che dicesse in qualche momento no, ecco, per esempio, di infrastrutture in questo momento, in questo campo, per il momento siamo abbastanza a posto, ne abbiamo nella misura giusta. No, io, questa è una cosa che è introvabile, no? Quindi ci sono queste categorie che appunto postulano una scarsità e quindi la necessità di uno sviluppo continuo, infinito, e di un consumo infinito e continuo. E, diciamo che io credo che non ci siano stati tante figure che siano state capaci di individuare un punto così cruciale del nostro tempo come l'ha fatto Illich. Da qua anche l'estrema necessità e utilità che possiamo avere oggi nel rileggerlo. Certo, e tutto questo ci può portare al timore chiaramente di apparire non semplicemente scomodi, ma addirittura quasi sovversivi, no? Nel dire queste cose, nel riflettere su queste cose, ma ci pongono degli interrogativi che, come dicevi te, sono necessari, è la realtà che ci circonda che ce li rende necessari. Mi viene da fare una piccola nota, forse anche questa per chi ci ascolta. Come prima abbiamo nominato The Schooling Society, giusto per dare una piccola bussola, The Schooling Society, quindi descolarizzare la società, descolarizzare la società e distruggere la scuola. In questo caso il riferimento lo possiamo fare a Tools for Conviviality, quindi anche su questo le conversazioni con Ivan Illich offrono un chiaro rimando. Direi, su questo tema, più sulla parte appunto più tecnica, sul tema degli strumenti. Esatto, bravo. La tecnologia, forse i due libri fondamentali sono appunto Tools for Conviviality, che in italiano si chiama La convivialità, e Energy and Equity, che è un pamphlet meraviglioso, che in questo libro, Una fiamma nel buio, Illich maltratta un po', perché una delle sue altre caratteristiche è di maltrattare non solo gli altri ma anche se stesso, diciamo nelle fasi precedenti, nel senso che lo accusa di essere stato un libro in qualche modo ingenuo. È un libro meraviglioso, che poi è stato inglobato nel libro Per una storia dei bisogni, e poi più recentemente in Italia, nell'ultimo decennio, è stato ripubblicato col titolo un po' simpatico ma un po' parziale di Elogio della bicicletta. Certo. Bene, io andrei avanti con Luigi, sempre mi piace riallacciarmi a quello che dite, per cui questa riflessione che hai fatto sull'evidenza di ciò che è controproduttivo, di una controproduttività dei mezzi, degli strumenti appunto in senso lato, quindi anche le istituzioni come strumenti, talmente pervasiva nel generare e nel rinnovare scarsità, nell'accezione che abbiamo adesso compreso di scarsità, sembra che in questa prospettiva l'idea di una visione della società, di un'interpretazione della società in una dialettica storica di oppressori e oppressi sembra non più adatta, forse, per spiegare la realtà, forse non lo era già ai tempi di Illich, e forse già per Illich era una forma antiquata di relazionarsi con i problemi sociali. Luigi? Sì, questa è una delle ragioni per cui Illich è stato sostanzialmente snobbato, se non proprio avversato, dalla sinistra in generale, cioè dalla sinistra americana come dalla sinistra italiana ed europea. Ha avuto un momento forse di riconoscimento negli anni del movimento, ma quando il movimento si è reso conto che lui parlava sostanzialmente di altre cose, e prima di tutto svicolava da questo schema di un po' della divisione del mondo, della società in oppressi, oppressori, e quando si è messo a parlare di strumenti, di istituzioni, fino ad arrivare, come dire, a mettere in discussione proprio alcuni pilastri del pensiero socialista e democratico, come appunto la scuola pubblica universale, la sanità pubblica. E diciamo che da lì in avanti non è stato più capito, e quindi come lui stesso sapeva e si aspettava. E come spiegare questa idea? Provo a tradurla un po' a partire dalla mia esperienza. Io insegno, come hai detto all'inizio, in una scuola di italiano per stranieri, e a parte le mie ore di didattica dell'italiano, mi rendo conto che sto passando le mie settimane, le mie giornate, tutto il tempo che ho libero a tappare i buchi. Cosa intendo per tappare i buchi? Lavorando con famiglie straniere, le famiglie straniere sono mediamente quelle, come dire, che più vengono escluse dai sistemi di integrazione che abbiamo in questo momento, quindi scuola, servizi sociali. E cosa vuol dire tappare buchi? Che io cerco, mi rendo conto che da educatore militante quale mi considero, mi viene il riflesso condizionato di lavorare per l'integrazione di queste persone e quindi sbattermi perché uno straniero, un richiedente asilo che non ha un permesso di soggiorno faccia di tutto attraverso la sanatoria per ottenere questo permesso, di sbattermi perché è un ragazzino che rischia di essere espulso, escluso semplicemente perché non ha una connessione o un computer funzionanti, passi l'anno e venga promosso. E quel riflesso condizionato lì, bisogna chiedersi un po' da dove viene e da dove viene l'idea che se si è integrati si stia meglio, si viva meglio. Io questa domanda ogni tanto me la pongo grazie anche a Illich, perché appunto nei momenti di delirio leggere Illich ti aiuta un po' anche a riposizionare quello che fai e quello che sei, e sostanzialmente ti rendi conto che appunto non è scontata, insomma, non è scontata questa cosa, non è scontato che superare a tutti i costi un anno scolastico ti renda uno studente, una persona più ricca, una persona più viva, non è scontato che passare magari 4 anni nel sistema di accoglienza italiano ti renda più capace di pensare a te stesso piuttosto che startene magari 3 o 4 anni nella clandestinità, ma vivendo. E Illich, diciamo, aiuta molto a pulire l'immaginario degli educatori militanti, come mi considero, dagli schemi attraverso cui guardiamo le cose, che schemi che molte volte, anche proprio su un piano della relazione educativa, non ci consentono di fare bene il nostro mestiere, perché abbiamo forse più in mente l'integrazione, abbiamo più in mente il percorso di scuola, di scolarizzazione, e meno presente la persona che abbiamo davanti, e quindi invece ci dovremmo sempre chiedere com'è possibile per far star meglio le persone con cui lavoriamo e non inserirle a tutti i costi dentro gli schemi ideologici, politici o religiosi attraverso cui guardiamo al mondo. Ecco, non so se posso aggiungere una cosa. Certo che sì. Su questo tema oppressi e oppressori, però preciserei che in qualche modo lo sforzo per in qualche modo indicare forme di oppressione contemporanea è sempre stato, poi è rimasto assolutamente al centro del lavoro di Illich. Quindi diciamo che io, più che dire che il suo pensiero mette in crisi la formula oppressi oppressore, io direi che la interroga e la riformula e la estende e la allarga e la, come dire, illuminando delle zone che fanno saltare alcuni automatismi più che altri. Più che non occuparsi di questo binomio, lo riposiziona continuamente. Cioè, adesso cito per esempio una sua frase di quegli anni che dice: l'interpretazione esclusivamente industriale del socialismo fa sì che comunisti e capitalisti parlino lo stesso linguaggio, misurino in maniera analoga il grado di sviluppo raggiunto da una società. Questo è un tipico, come dire, no? Suo modo di spiazzare, a partire per esempio dalla questione tecnologica dello sviluppo, eccetera, le categorie abitualmente contrapposte. Però da qua non ne discende che non ci sono forme inaccettabili e radicali di oppressione che vanno combattute, tutt'altro, no? No, certo, diciamo che da intellettuale militante, come tutti gli intellettuali militanti, forse la domanda a cui ha sempre cercato di rispondere è, diciamo, le cause della libertà e dell'oppressione sociale. Esattamente. Semplicemente a questa domanda ha dato risposte molto diverse da come da come per esempio il pensiero socialdemocratico si dava in quegli anni e tuttora si sta, secondo me, continuando a dare. Ecco, è una cosa che ho dimenticato di dire prima, tratteggiando molto sommariamente il tema della controproduttività e della corruzione ottimi pessima, è che in realtà cruciale per Illich e quindi anche molto dolente per lui in quanto cristiano, in quanto sacerdote, rimarrà sacerdote per tutta la vita in realtà, al di là dell'autosospensione della fine degli anni 60, è l'analisi che questa ideologia dello sviluppo che postula questa scarsità ha per lui un'origine assolutamente cristiana. Cioè l'ideologia dello sviluppo è per Illich, questo è un filone a cui dedicherà tantissime energie un po' in tutte le fasi del suo lavoro, è una forma di pervertimento del cristianesimo, cioè l'idea appunto del bene, dell'amore cristiano, dell'agape, che si trasforma, come dice lui, in un management totale globale, cioè in qualcosa che diventa gestione, che diventa burocrazia, perché questo so che è un punto che sta molto a cuore non solo a me ma anche a Luigi, è un altro dei temi enormi del nostro tempo, che in qualche modo la sinistra tradizionale trascura, spesso considerandolo, come dire, funzione inevitabile del pubblico, no? Ed è un campo lasciato un po' appannaggio delle destre, di rivendicazioni individualiste, di privilegio di classe, eccetera, eccetera. In Illich c'è una critica radicale della burocrazia e della burocratizzazione che oggi è quanto mai necessaria, e forse diciamo, abbiamo dovuto attendere poi diversi decenni per cui venisse fuori le analisi di David Graeber sulla burocrazia e sul bullshit job, eccetera, che è un altro, come dire, caso abbastanza isolato, come dire, una critica della burocrazia e della burocrazia del lavoro, eccetera, a partire da posizioni non liberiste, individualiste, eccetera, ma a partire da posizioni libertarie, civiche e progressive in qualche modo. Certo, siete stati veramente chiarissimi nell'esporre questo punto che secondo me è cruciale. Abbiamo tempo, penso, per soltanto un'ultima questione che vi vorrei porre a partire da una lettura che vi propongo come spunto, naturalmente da questo libro, dalle conversazioni con Illich, Una fiamma nel buio. Un punto molto provocatorio e che ci permette di riallacciarci a questa riflessione sul cristianesimo, di nuovo sul concetto di scarsità, su come questo concetto venga in qualche modo ricordato alle masse, tanto dall'ala socialista quanto dall'ala liberista, e quindi a un certo punto Illich ricorda a Cayley come interrogato, lui dice specificamente, da un qualcuno bello, amorevole e vivo, su se lui si curasse o meno dei bambini con il ventre gonfio e le gambe a stecco che nel Sahel si ammalano e muoiono di fame. La risposta, la reazione immediata di Van Illich è: voglio, farò tutto quello che posso per eliminare dal mio cuore qualsiasi senso di cura nei loro confronti. Voglio piuttosto provare orrore, voglio veramente sentire questa realtà di cui tu mi informi. Non voglio sfuggire al mio senso di impotenza e cadere nella pretesa che me ne curo e che faccio e ho fatto tutto quello che era possibile. Voglio vivere con l'ineludibile orrore di questi bambini, di queste persone nel mio cuore e sapere che non posso amarli veramente, attivamente, perché amarli, almeno per come sono fatto, dopo aver letto la storia del Samaritano, significa lasciare da parte tutto quello che sto facendo in questo momento e tirare su da terra quella persona. Significa prendere con me tutto quello che ho nella mia piccola sacca di denari d'oro e portare questo tizio in una locanda, come fece quel palestinese con l'ebreo che era caduto nelle mani dei ladri e disse: «Per favore, prendetevi cura di questo tizio. Spero di aver fatto qualche soldo in più quando sarò di ritorno, così vi pagherò il resto delle spese. Quindi vi lascerei con Giacomo, ti lascerei con questo spunto anche conclusivo. Che cosa si può fare? Forse ci possiamo anche ricollegare al titolo che è stato scelto appunto per questa nuova edizione. E, se in questo buio che ci viene raccontato, qual è la possibilità di azione per l'essere umano? A me verrebbe dalle due risposte che valgono contemporaneamente. Diciamo che lo stesso Illich ha risposto in questi due modi in diverse fasi della sua vita. Una è quella della sua fase più battagliera e militante degli anni 70, e in cui poi in questo libro invece, 20 anni dopo, riassume dicendo: io non voglio accettare questa idea di cura burocratizzata, perché mi impedisce di andare a incatenarmi ai cancelli di una multinazionale qua a New York che sfrutta e provoca l'inaridimento e il cambiamento climatico nel Sahel. Cioè una risposta, come dire, e qui dice il punto è la burocratizzazione della cura, l'immaginarla come qualcosa che riguarda una istituzione deputata a elargirla, e fare invece qualcosa immediatamente. E appunto in questo caso lui dice appunto: non mi occupo di questa cura, vado a incatenarmi al cancello della multinazionale. C'è però anche un'altra parte che cresce poi nell'ultima fase della vita di Illich, che è quella che lui definisce powerlessness, cioè diciamo l'essere senza potere. Questa è per l'ultima fase di Illich è una cosa che lui invita in qualche modo ad accettare. E devo dire che per esempio risuonano altre posizioni di altri pensatori. Penso a Capitini, la critica della società dell'attivismo, una società esclusivamente attivistica, che lascia quindi ai margini gli spezzati, quelli che non ce la fanno, quelli che sono stati travolti, no? Quindi diciamo una apertura verso una dimensione che non è solo attivistica, cioè che riconosce una dimensione di di rifiuto del potere in qualche modo. E quindi diciamo, secondo me, queste, parlando appunto delle posizioni di Illich, sono due posizioni che vanno viste un po' insieme: una è il rovescio della medaglia dell'altra, e quella cosa della soffiare per riaccendere la fiamma nel buio è una cosa che Illich cita da quello che lui ha considerato un suo grande maestro, che era vescovo brasiliano Elder Câmara. Era una frase di Câmara, quella di, dopo una conversazione drammatica con un torturatore praticamente del regime brasiliano, lui si siede spossato e dice: bisogna solamente soffiare e soffiare e soffiare, e non importa se poi si riaccenderà o no la fiamma, ma può sempre riaccendersi. È sparito Luigi, mi sembra, dal nostro consesso, o non lo vedo io? Al momento non risulta più in linea, ma io intanto posso farti un'ultima domanda? Certo. È una curiosità che viene da che raccogliamo, che abbiamo appena raccolto. La domanda è questa: nel 2020 in Italia sono usciti due libri importanti su Illich. Questo qua che presentiamo oggi, Una fiamma nel buio, edito da Eleutera, e che tu appunto hai curato, e un altro che è Celebrare la consapevolezza, curato da Fabio Milana, edito da Neri Pozza, e che è la prima raccolta delle opere di Illich nell'ordine cronologico. È singolare che un autore che non è frequentatissimo sia tornato, almeno in una certa forma, in forma di libro, a bussare alla nostra porta due volte. La domanda è: perché a questo punto è importante ritrovare Illich, le sue parole, i suoi scritti? È una domanda ampia ma anche personale, quindi puoi rispondere semplicemente perché è importante per te, perché lo è stato e perché lo è. Ma io direi che in qualche modo, con tutto quello che abbiamo detto adesso, spero che abbiamo già risposto. Basterebbe questo filone della riflessione sulla controproduttività per renderlo assolutamente essenziale al nostro tentativo faticoso quotidiano di capire qualcosa di quello che ci circonda. Direi che questi due libri incarnano abbastanza bene due, come dire, strategie del lavoro su Illich molto anche diverse. Quello che ho curato io per Eleutera, e che fra l'altro è appunto una nuova traduzione anche rispetto a quella che Eleutera aveva pubblicato, anche leggermente accorciata nel 94, parecchi anni fa, è come dicevamo un libro in qualche modo panoramico sul lavoro di Illich e la sua ricchezza deriva in gran parte dal fatto di essere accompagnati da Illich stesso in questo pellegrinaggio lungo la sua vita. Però appunto è un libro che riguarda un po' un'introduzione alla sua vita e al suo pensiero. Il lavoro di Fabio Milana, pubblicato da Neri Pozza, è il primo volume delle opere complete, un progetto vastissimo. Il primo volume conta quasi 1000 pagine, 900 e qualcosa, ed è invece un lavoro assolutamente, come si potrebbe dire, filologico e scientifico, cioè diciamo quello che mancava nelle edizioni dell'opera illicciana fino a questo momento in Italia, ma forse addirittura in generale in tutte le lingue. Cioè è il primo pezzo di un lavoro sistematico di scavo e di ricostruzione puntigliosissima che Fabio ha fatto in anni e anni di lavoro, che direi non ha pari nelle edizioni illicciane in nessun'altra lingua. Erano iniziate delle opere complete, le pubblicazioni di opere complete in Messico, in spagnolo e in Francia, in francese, ma diciamo erano delle compilazioni, per quanto complete e sistematiche, di tutt'altro livello di profondità rispetto a questa. Questa è, tenete conto che questo primo volume di 900 pagine riguarda solo la fase dell'Illich prima dei suoi pamphlet divenuti famosi negli anni 70, quindi diciamo sono questo primo grosso tomo è solamente sull'Illich, che riguarda praticamente un libro precedentemente già pubblicato, che era appunto Celebration of Awareness, Rovesciare le istituzioni, nel titolo di allora in italiano, e mette insieme invece una quantità spropositata di testi, alcuni pubblicati in edizioni locali, per esempio in lingua spagnola, in America Latina, eccetera, eccetera, in Perù, eccetera, e poi moltissimi testi sciolti, sfusi, compreso per dire la tesi di dottorato di Illich, scritta giovanissimo a Salisburgo, eccetera. Insomma, quindi è un lavoro di vastissima profondità di studio, che speriamo poi continui anche nei prossimi anni con i volumi successivi. Grazie Giacomo. Faccio anche a Luigi una domanda che viene dal pubblico. La domanda è questa: a proposito di scarsità, sembra che in questo particolare momento la soluzione ai problemi della scuola, DAD, didattica a distanza in primis, sia più scuola, sempre più scuola. Vedi proposte come l'allungamento dell'anno scolastico. Come si porta Illich nella scuola contro la scuola? Diciamo che, vabbè, io mi scuso, mi sono assentato un attimo, evidentemente per una nemesi liciana, la mia connessione mi ha abbandonato. E diciamo che sì, la domanda tocca un argomento che avrebbe sicuramente molto forse divertito Illich, perché è una cosa che forse non abbiamo detto abbastanza, è l'ironia. Puoi farlo tu. L'ironia con cui Illich ha affrontato questi temi, anche gli ultimi, quelli per lui più sofferti e per certi versi apocalittici, quindi sicuramente avrebbe affrontato con ironia anche questa questione. Chi è stato, chi insegna in questo periodo non può non rendersi conto di questa follia di pensare che qualunque cosa sta succedendo intorno, il bisogno primario, soprattutto per i bambini e per i ragazzi, sia più scuola, e quindi queste piroette, questi salti mortali per connettere le persone. Mi sono chiesto se si può fare un paragone con, per esempio, con gli anni di guerra. Gli anni di guerra, se uno pensa agli intellettuali, ma anche alla letteratura che ha raccontato quegli anni, sono stati anni di grande formazione per chi li ha vissuti. Ovviamente io non sto augurando la guerra a nessuno, dico che però le crisi possono essere occasioni di formazione, e quindi io mi chiedo, per esempio nei primi mesi di lockdown, ma se ce ne dovessero essere degli altri, se non avrebbe avuto più senso che le persone, i ragazzi in primis, potessero vivere quei mesi in un altro modo che non stare otto ore appiccicati a un video e invece riflettere su quello che stava succedendo, leggersi qualche libro, credo che sarebbe stato sicuramente formativa. Non so se questa sarebbe stata la risposta che avrebbe dato Illich, ma io l'ho vissuta un po' in questi termini. Voglio solo dire che mi offro, se decidete di invitare anche Fabio Milana, come spero, per presentare il primo volume delle opere, mi offro volentieri a intervistarlo, perché mi sembra che la sua operazione sia importantissima e che crea un collegamento che finalmente diciamo qualcuno ha fatto tra gli ultimi 10 anni di vita di ricerca di Illich, quelle appunto legate all'idea del pervertimento del cristianesimo, con le prime esperienze di giovane prete e di giovane in formazione, perché una cosa su cui Fabio ha lavorato, che purtroppo ancora non è pubblica, è la biografia di Illich negli anni di formazione. Penso che anche da lì verranno fuori delle cose molto interessanti. Però non posso non concludere invece suggerendo la lettura delle conversazioni che Giacomo ha ritradotto, perché sono una lettura veramente bellissima, appassionante, in ragione anche del fatto che forse nelle interviste Illich è meno freddo e meno tetragono come è invece magari nelle sue opere più sociologiche. È un Illich più ironico, più sofferto, probabilmente più, insomma, anche più umano, e quindi può essere un buon consiglio, come diceva Giacomo, partire da qui. Certo, e noi prima di tutto raccogliamo con un enorme piacere la tua offerta di stare di nuovo con noi, e siamo arrivati alla fine del primo appuntamento, però, quindi vi devo salutare. E il piacere è stato veramente grande per me parlare con voi di questo argomento. Finisce quindi il primo appuntamento di questo ciclo, Prendere la parola. Prima di salutarci, però, vi chiediamo proprio in ultima istanza una parola, una sola parola per lasciarci dopo questa conversazione. Questa è una domanda che faremo a tutte le persone che parteciperanno alle nostre presentazioni. Una parola per lasciarci stasera e per ritrovare magari anche qualche stimolo in più per il nostro futuro, per chissà, per impostare una mostra, impostare un laboratorio, proseguire il nostro lavoro di ricerca. Avete pochissimo tempo per pensarci, quindi lasciatevi andare. Vai Giacomo. Ma io andrei sul facile, visto che è una domanda impossibile, direi controproduttività. Va benissimo. E io consapevolezza. Perfetto. Benissimo, allora vi ringraziamo di nuovo e ricordiamo che il podcast di questa puntata che si è appena conclusa sarà disponibile sul sito del Centro di Documentazione di Pistoia da domani e questo vale per tutte le prossime puntate. Ringraziamo gli amici del Centro di Documentazione di Pistoia che si sono dati moltissimo da fare per realizzare questo progetto. Rinnoviamo la raccomandazione di leggere questo bellissimo libro, Una fiamma nel buio, Conversazioni, Ivan Illich e David Cayley, edito da Eleutera nel 2020. Io vi saluto di nuovo e ci vediamo, ci risentiamo alla prossima, al prossimo incontro di Prendere la Parola. Grazie. Grazie mille. A presto. The term I take from the now published book of Professor Perksen from Freiburg in southern Germany, a linguist and medievalist. During the second part of the 80s, he came to the conclusion that there are certain words in all modern languages which ought to be labeled in a special way when you put them into a modern dictionary. You know, in dictionaries they say this is a word which is common. In its common meaning, it means this. In its antiquated meaning, it means something else. When you combine it in a particular way, it becomes vulgar. In another sense, it is technical. He came to a conclusion that one major category of word usage had been overlooked, for which he created the term amoeba-like or plastic. A plastic word, an amoeba word, fits about 25 characterizations, and he doesn't admit any word into this egregious category unless they fit all these 25. It's a term which has powerful connotations. A person becomes important when he uses it. He kind of bows to some kind of a profession who know more about it. He is convinced that he makes in some way a scientific statement. Using the word makes waves, but it doesn't hit anything. It does have no denomination power. It does not designate anything precisely, though it has all those connotations. Usually, it's a word which has existed always in the language, but which has gone through a scientific laundry and then dropped back into ordinary language with a new connotation that it has something to do with what other people know and you can't quite fathom. He has found these words in every language and they are everywhere, only a couple of dozen, and they are always the same. Perksen puts sexuality, for instance, into the category of amoeba words. Or crisis, or information. And when I came to Perksen and said to Perksen, Uwe, I think I found the worst of them, life. He became very silent. For the one time in my life, I had the impression that he became angry with me, disappointed with me. He was offended. And it took about 6 months or 9 months before we could speak about that issue again. Because it is just unthinkable that something as precious and beautiful as life should act as an amoeba word. I came to the conclusion that when I use the word life today, I could just as well just say,